Wombat Firenze. E torniamo a noi e torniamo un po' a conoscere insieme chi era Woodrow Wilson Guthrie, ovvero Woody Guthrie, meglio conosciuto come Woody Guthrie. Era nato a Oklahoma, nell'Oklahoma nel luglio del 1912, e Guthrie crebbe veramente in una famiglia disastrata come poche. La sorella morì per una fuga di gas, la madre si ammalò di quella che poi verrà diagnosticata come la malattia di Huntington. E verrà appunto internata in un sanatorio e a 11 anni Guthrie doveva già guadagnarsi da vivere presso le famiglie di Oklahoma in Oklahoma appunto, anche se il padre era un facoltoso proprietario terriero che aveva fatto i soldi, come si suol dire, dopo il boom del petrolio negli anni 20, dopo che era stato trovato il petrolio a Oklahoma. Però, ecco, quando la bolla del boom del petrolio si sgonfiò, fu costretto anche lui a dichiarare bancarotta come tantissimi altri. Come se non bastasse, la loro casa venne distrutta pure in uno dei tanti cicloni della fine degli anni 20, delle famose Dust Bowls degli anni 20, della fine degli anni 20. Infatti, poi, tra l'altro, il famoso 1929 è l'anno della Grande Depressione americana. E proprio in quel 1929 il padre, ormai sul lastrico, decise di trasferirsi a cercare fortuna verso altri lidi e si trasferì a Pampa in Texas e volle che anche il quasi diciottenne Woody lo seguisse. E con quella scusa Woody, con la scusa di prendere il treno, appunto, disse: "Ma chi me lo fa fare da andare da mio padre laggiù nel Texas?" E come tantissimi altri diseredati di quegli anni, montò sul primo treno merci e iniziò a viaggiare in su e in giù e a scoprire la grande America. E come si suol dire, iniziò a fare la vita del lobo, cioè il vagabondo sui treni merci. E questa adolescenza fatta di continui spostamenti da un treno all'altro e di occupazione occasionale, ovviamente, quello che trovava, l'imbianchino, lo strillone, il predicatore, il cantante, visto che già sapeva suonare discretamente sia la chitarra che la chitarra, il mandolino ed il banjo, e anche l'armonica a bocca, come alle vere one man band, come si dice. E per partire subito con il primo pezzo, appunto, facendo la vita del Hobos, no, non potevo che scegliere Hobos Lullaby, la ninna nanna degli Hobos, composta ovviamente da Woody Guthrie, a Tonight Alive, Radio Wombat. Go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Do not think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble, they cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Questa era la Ninna Nanna degli Hobos, scritta da Woody Guthrie. E già all'età di 19 anni Guthrie si sposò per la prima volta con la sua prima moglie, Mary Jennings. Si sposò in Texas nel 1931, appunto. E tra l'altro avranno anche 3 figli insieme. Ma dopo che la tempesta di polvere più violenta della storia riducesse in sabbia i campi di tutta la fascia centrale dell'America rurale, arrivando addirittura a lambire il confine con il Canada, Guthrie si unì alla folla dei disperati, di Okies in questo caso, come venivano soprannominati, perché appunto provenienti dall'Oklahoma, che lasciavano la loro terra e partivano in cerca di fortuna alla volta della California, la terra promessa. Il loro viaggio era un'odissea attraverso la miseria delle baracche, la violenza degli industriali, l'ipocrisia dei borghesi e le ingiustizie delle autorità. Nel 1937 si spostò a Los Angeles, dove trovò lavoro come cantante country. Raccoglieva le sue impressioni sulla vita dei poveri e sulle persecuzioni dei dissidenti sotto forma di canzoni scarne ed efficaci. E andiamo adesso a sentirci uno dei suoi primissimi grandi successi, che appunto parlava di questa grande catastrofe che colpì l'America centrale, l'America dell'agricoltura, ovvero le Dust Bowls, le violentissime tempeste di sabbia, e questa appunto è Talking Dust Bowl Blues. Woody Guthrie, Tonight Alive, Radio Wombat. Back in 1927, I had a little farm and I called that heaven. Well, the price is up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids and raised the family. Rain quit and the wind got high and a black old dust storm filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of this gas Eileen. And I started rocking and rolling over the mountains out towards the old Peach Bowl. Way up yonder on a mountain road, I had a hot motor and a heavy load. I was going pretty fast, I wasn't even stopping, bouncing up and down like popcorn popping. Had a breakdown, I'm sort of a nervous bust down of some kind. It was a feller there, a mechanic feller, said it was engine trouble. Way up yonder on a mountain curve, it's way up yonder in the piney wood, and I give that rolling Ford a shove, and I was going to coast as fur as I could. Commenced coasting, picking up speed, was a hairpin turn. I didn't make it. Man alive, I'm telling you, the fiddles and the guitars really flew. That Ford took off like a flying squirrel and it flew halfway around the world. Scattered wives and children all over the side of that mountain. We got out to the west coast broke, so dadgum hungry I thought I'd croak. And I bummed up a spud or two, and my wife fixed up a tater stew. We poured the kids full of it. Mighty thin stew, though, you could read a magazine right through it. Always have figured that if it'd been just a little bit thinner, some of these here politicians could have seen through it. E questa era la sua Talking Dust Bowl Blues. E il suo stile derivava tanto dalla tradizione bianca, infatti si accompagnava con solo la chitarra e l'armonica. Molto spesso la tradizione bianca della musica anglosassone, della musica nordeuropea, tanto quanto a quella nera per ciò che riguarda il semiparlato ironico alla Talking Blues, appunto, tipicamente nero. Ma i testi costituivano una novità assoluta. Nessuno aveva mai usato prima la musica come mezzo diretto di informazione e di denuncia. E nacquero così le Dust Bowl Ballads, originariamente scritte nel 1935 e mandate in onda sulla radio KFVD di Los Angeles, e vennero registrate a New York per la prima volta da Alan Lomax per la Victor Records solo nell'aprile del 1940. Erano le ballate sui poveri e sui disoccupati della zona della siccità, agghiaccianti cronache dell'apocalisse, delle campagne devastate dalle tempeste di sabbia. E forse la più famosa e anche il protagonista più famoso di queste Dust Bowl Ballads sicuramente è Tom Joad, che ci andremo a sentire adesso. Got out of the old McAllister pen. There he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Joad come walking down the road. Poor boy, Tom Joad come walking down the road. Tom Joad, he met a truck-driving man. There he called him a ride. He said, I just got loose from McAllister Pen on a charge called homicide. A charge called homicide. That truck rolled away in a cloud of dust. Tommy turned his face toward home. He met Preacher Casey and they had a little drink, but they found that his family, they was gone. He found that his family, they was gone. He found his mother's old-fashioned shoe, found his daddy's hat, and he found little Muley, and Muley said, they've been tractored out by the cats. They've been tractored out by the cats. Tom Joad walked down to the neighbor's farm, found his family. They took Preacher Casey and loaded in a car, and his mother said, we've got to get away. His mother said, we've got to get away. Now the 12 of the Joads made a mighty heavy load, but But Grandpa Joe did cry. He picked up a handful of land in his hand, said, I'm staying with the farm till I die. Yes, I'm staying with the farm till I die. They fed him short ribs and coffee and soothing syrup, and Grandpa Joe did die. They buried Grandpa Joe by the side of the road, Grandma on the California side. They buried Grandma on the California side. They stood on a mountain and they looked to the west, and it looked like the promised land. That bright green valley with a river running through, there was work for every single hand. They thought there was work for every single hand. Jungle camp, there they cooked a stew, and the hungry little kids of the jungle camp said, we'd like to have some too, said we'd like to have some too. Now a deputy sure fired loose at a man, shot a woman in the back. Before he could take his aim again, Preacher Casey dropped him in his track. Poor boy, Preacher Casey dropped him in his track. They handcuffed Casey and they took him in jail. And then he got away, and he met Tom Joad on the old river bridge, and these few words he did say. Poor boy, these few words he did say. I preached for the Lord a mighty long time, preached about the rich and the poor. Us working folks is all get together, cause we ain't got a chance anymore. We ain't got a chance anymore. Now the deputies come and Tom and Casey run to the bridge where the water run down. But the vigilante thugs hit Casey with a club. They laid Preacher Casey on the ground. Poor Casey, they laid Preacher Casey on the ground. Tom Joad, he grabbed that deputy's club, hit him over the head. Tom Joad took flight in the dark, rainy night, and a deputy and a preacher lying dead. Two men, a deputy and a preacher lying dead. Tom run back where his mother was asleep. He woke her up out of bed, and he kissed goodbye to the mother that he loved. Said what Preacher Casey said, Tom Joad, he said what Preacher Casey said. Everybody might be just one big soul, well it looks that way to me. Everywhere that you look in the day or night, that's where I'm a-gonna be. Ma, that's where I'm a-gonna be. Wherever little children are hungry and cry, wherever people ain't free, wherever men are fighting for their rights, that's where I'm a-gonna be. Ma, that's where I'm a-gonna be. E Questa era la famosissima ballata di Tom Joad di Woody Guthrie. E Tom Joad non era nient'altro che il famoso protagonista del romanzo Furore del 1939, vero culto dello scrittore americano John Steinbeck, con il quale Guthrie era diventato molto amico, conoscendolo, avendolo conosciuto nei circoli del Partito Comunista della Bassa California. E Woody fiuta che New York è il perfetto trampolino di lancio per i suoi messaggi sotto forma di canzoni di denuncia. E sempre in quel 1940 è la sua famosissima e già ascoltata This Land Is Your Land, autentico archetipo della stragrande maggioranza delle canzoni cosiddette di protesta degli anni a seguire. E girò il paese insieme al suo amico e grande folker Pete Seeger, suonando e raccontando la sorte degli ultimi nella nazione in guerra. E nel maggio del 1941 Guthrie si spostò a Portland in Oregon con una promessa di lavoro fattagli da Gunther von Fritsch, che stava dirigendo il documentario sulla costruzione della diga di Grand Coulee, appunto sul fiume Columbia. Appunto per questo documentario aveva bisogno di una voce narrante. Il sempre citato, quasi sempre citato nelle mie trasmissioni, Alan Lomax raccomandò caldamente Guthrie al regista per cantare le sue canzoni sullo schermo. E Guthrie fu invitato a fare questo giro sul fiume Columbia. E se lo girò, se lo percorse in gran parte, e si dice che rimase veramente, veramente colpito dalle bellezze di questo fiume, tanto da non poter credere, dice, che fosse un tale paradiso. E questo lo ispirò a tal punto che per questo lavoro Guthrie scrisse ben 26 canzoni. Tra l'altro, tra queste 26 canzoni, anche tre delle sue più famose, Roll On Columbia, Roll On, Pastures of Plenty e Grand Coulee Dam, sono appunto tre delle canzoni che poi verranno raccolte in quella che poi è stata titolata la Columbia River Songs. E tra l'altro il film Columbia, appunto, di Gunther von Fritsch vedrà la luce solo nel 1949, quindi quasi 10 anni, dopo, 8 anni dopo il completamento della colonna sonora di Woody Guthrie. E da questa raccolta di canzoni adesso ci andremo a sentire due suoi brani di questa raccolta dedicata al fiume Columbia, e ovviamente ci sentiremo Roll On Columbia, Roll On e The Biggest Thing Man Has Ever Done. Sempre ovviamente su Tonight Alive a Radio Wombat. Green Douglas fir where the waters cut through, down her wild mountains and canyons she flew, Canadian Northwest to the ocean so blue, it's roll on Columbia, roll on. Roll on Columbia, roll on. Roll on Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on Columbia, roll on. Other great rivers add power to you, Yakima Snake and the Clicky Tattoo, Sandy, Willamette and Hood River too. Roll on Columbia, roll on. It's there on your banks that we fought many a fight, Sheridan's boys and the blockhouse that night. They saw us in death, but never in flight. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on. Our loved ones we lost there at Cole's little store by fireball and rifle, a dozen or more. We wonder the Marion soldier she bore. Roll on, Columbia, roll on. Remember the trial when the battle was won. The wild Indian warriors to the tall timber run. We hung ever ending with smoke in his gun. Roll on, Columbia, roll on. Year after year we had tedious trials, fighting the rapids and cascades and downs. The engines rest peaceful on Mamaloose Isle. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on. At Bonnyville now there is ships in the locks. Waters have arisen and drowned at the rocks. Shiploads of plenty will steam in the docks. Roll on, Columbia, roll on. On up the river at Grand Coulee Dam, mightiest thing ever built by a man, to run the great factories for old Uncle Sam. Let's roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning darkness to dawn. Roll on. I'm just a lonesome traveler, the great historical bum. Highly educated, from history I have come. I built the Rock of Ages, 'twas in the year of one. That was about the biggest thing that man had ever done. I worked in the Garden of Eden, it was a year of two. Joined the Apple Pickers Union, I always paid my due. And the man who signed the contract to raise the rising sun. That was about the biggest thing that man had ever done. I was straw boss on the pyramids and the Tower of Babel too. Opened up the ocean, let the migrant children through. I fought a million battles and I never lost a one. That was about the biggest thing that man had ever done. I beat the daring Roman, I beat the daring Turk. Defeated Nero's army with 30 minutes work. I fought the greatest leaders and licked them every one. That was about the biggest thing that man had ever done. I was in the revolution when we set the country free. It was me and a couple of Indians that dumped the Boston Tea. We won the battle at Valley Forge and battle at Bully Run. That was about the biggest thing that man had ever done. There's a man across the ocean and I guess you know him well. His name is Adolf Hitler and damn his soul to hell. We'll kick him in the panzers and put him on the run. That'll be the biggest thing that man has ever done. There's mines and mills and factories that run for Uncle Sam. Producing for the soldier boys that fight for this great land. Our job it is a tough one, it'll take us everyone. But this'll be the biggest thing that man has ever done. There's warehouse guys and teamsters and guys that skin the cats. Guys that run the steel mills, the furnace and the blast. We'll stop the Axis rattlesnakes and thieves of old Nippon. That'll be the biggest thing that man has ever done. Well, I better quit my talking 'cause I told you all I know. Please remember, partner, wherever you may go, the world is digging Hitler's grave and when the job is done, that'll be the biggest thing that man has ever done. Yes, that'll be the biggest thing that man has ever done. E questa era The Biggest Thing That Man Has Ever Done, appunto canzone che declamava la costruzione appunto della diga sul fiume Columbia. E nel 1943, tra l'altro, pubblicò anche il suo primo racconto, Bound of Glory, che ottenne un'ottima risposta sia di critica che di pubblico. un romanzo poi diventato molto famoso. E ora volevo, prima di proseguire, volevo aprire una parentesi con le grandissime influenze che ha avuto Woody Guthrie su tutta, direi, la musica americana avvenuta poi, se non tutta, quantomeno in gran parte, o di un certo tipo di musica. Sicuramente tra gli autori che gli devono più di qualcosa c'è tutta la serie dei Folker degli anni 60, delle canzoni di protesta degli anni 60, come John Baez, come Donovan, come Country Joe McDonald, sono tantissime, come Bob Dylan, suo figlio Arlo Guthrie. Ce ne sono veramente. Pete Seeger stesso, che nonostante girasse insieme a lui e fosse un suo amico, era profondamente influenzato dalla sua musica e dal suo modo di scrivere canzoni di denuncia. E quindi, visto la grandissima influenza che ha avuto sulla musica americana, non potevo farvi non sentire anche una serie di cover di suoi pezzi fatti da debitori alla sua musica. E come primo di questi ospiti della puntata su Woody Guthrie, avrei invitato ovviamente uno che viene da un tipo di musica un po' diverso del folk, anche se è molto, diciamo, è adiacente il country. Sto parlando di ovviamente Johnny Cash, che è stato veramente un grandissimo, non ve lo sto nemmeno a dire. Anche su di lui si dovrebbe fare almeno una puntata. E di Johnny Cash, cantata da Johnny Cash, ho scelto appunto This Train Is Bound for Glory, con il titolo appunto del primo romanzo di Woody Guthrie appena citato. E questo è il suo, diciamo, tra virgolette, discepolo Johnny Cash. We're gonna ride the Bible train now. No, some won't ride, but we're gonna get on the Bible train. Some ride, but not all the way. Bible train is in the yard now and it's waiting, and oh, it looks so good. But you might get bored and impatient waiting, like those two good brothers over there. They passed around the bottle in the car before they got on the train. Just want to take one more for the road, then that leads to something else. Well, they ain't on the train no more, and maybe 9 or 10 got off with them. There's a sister in the church, and she says to a friend, husband works at night and so is mine. Why don't we just get together sometime when they're gone, go downtown, find us some action. Well, then they gotta get off the Bible train. And then another man, he's sitting over there looking at a woman in the corner, and he gives her that eye, you know, and they meet later secretly. So they gotta get off. This train's got a rule against adultery. And while all this is happening, the train is getting ready to go. But there's a lot more to get off for different reasons just before the train pulls out. But listen, it's starting to move now. Listen to it. Here we go. As it leaves, a man on a caboose with a long white beard says, this train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Nobody ride it but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train. This train is a free train, this train. This train is a free train, this train. This train is a free train, everybody rides in Jesus' name. This train is a free train, this train. This train that don't pull no liars, this train. This train don't pull no liars, this train. This train don't pull no liars, no bald pretenders and no backbiters. This train don't pull no liars, this train. This train is a clean train, this train. This train is a clean train, this train. This train is a clean train, everybody rides it in Jesus' name. This train is a clean train, this train. Do you want to ride a children's holy train? Do you want to ride a children's righteous train? Get on board, get on board, get on board, get on board, get on board, get on board this holy train. Grande Johnny, e questa era la sua reinterpretazione di This Train is Bound for Glory di, ovviamente, Woody Guthrie. E sempre parlando di influenze e di allievi, tra virgolette, come non citare, appunto, e non chiamare in causa Bruce Springsteen, che sicuramente a Woody Guthrie deve più di qualcosa. In questo caso il boss ci reinterpreta una canzone sugli Oboes di Woody Guthrie, ovvero I Ain't Got No Home, e questo ovviamente è Bruce Springsteen. I ain't got no home, I'm just a rambling round. I work when I can get it, I roam from town to town. Police make it hard, boys, wherever I may go. I ain't got no home in this world anymore. But I was farming shares and always I was done. My debts, they was so many, my pay wouldn't go around. Drought got my crop, Mr. Banker. Now I ain't got no home in this world anymore. Six children I have raised, they're scattered and they're gone. And my darling wife, to heaven she has flown. She died of the fever, yes, I'm caring for. I ain't got no home in this world anymore. I mind in your minds and I gathered in your corn. I've been working, mister, since the day that I was born. I worry all the time like I never did before. Cause I ain't got no home in this world anymore. Well, now I just ramble around to see what I can see. It's a wide, wicked world, sort of funny place to me. Gambling man is rich and the working man is poor. I ain't got no home in this world. Well, I'm stranded on this road that honor thousand others are stranded here with me. 100,000 others, yes, 100,000. I ain't got no home in this world anymore. E questo era il boss Bruce Springsteen che reinterpretava Ain't Got No Home di Woody Guthrie. E Woody Guthrie stesso all'inizio degli anni 40 iniziò anche a scrivere articoli sui giornali di sinistra americani e negli anni seguenti il suo impegno politico crebbe sempre di più. Basti anche solo pensare alla sua famosissima chitarra con inciso sopra il motto "This machine kills fascists". E ritornò a New York per incidere 3 dischi ufficiali con le celebri Elegie proletarie, Pretty Boy Floyd, Ludlow Massacre del 1944, 1913 Massacre sempre del 1944, Deportee del 1948, anche nota con il nome di Plane Wreck at Los Gator. E se ne tornò in California nel 1943 attraversando il paese sempre con il fido Cisco Houston e intrattenendo gli emigranti che incontrava per la strada. Convinto da Pete Seeger a trasferirsi al Greenwich Village, quindi un suo ritorno nella grande mela a New York, suonò appunto con Pete Seeger e con i suoi Almanac Singers ai raduni sindacali e ai comizi politici dell'epoca. E poi dopo una breve esperienza in un super quartetto con i bluesmen Led Belly, Sonny Terry e Brownie McGhee, Guthrie, che era di nuovo in compagnia del fido Cisco Houston, si arruolò volontario per la Sicilia e al suo ritorno nel 1945, profondamente deluso dalla crisi della New Left americana, dilaniata allora dalle polemiche fra i pacifisti e gli interventisti e dalla caccia alle streghe indetta dal senatore McCarthy, scrisse la propria autobiografia. E come nuovo prossimo pezzo ci andremo a sentire un estratto da uno degli album sulla Smithsonian Folkways, un'importantissima etichetta che praticamente è l'emanazione discografica della Library of Congress, quindi diciamo un disco super ufficiale, per non dire istituzionale. Questo pezzo è in trio, è in compagnia di Cisco Houston e di Sonny Terry, e questa è Red River Valley, sempre a Tonight Alive Radio Wombat. Sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loved you so true. Well, they tell me, my dear, that you're going. Miss your bright eyes and your smile, for with you are taking the sunshine that has brightened my life for a while. So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loves you so true. And you go to your home by the ocean. May you never forget those sweet hours that we spend in that Red River Valley and the love we exchange with the flowers. So come sit by my side not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loved you so true. I have waited a long time, my darling, for those words that you never would say. Till at last my poor heart is breaking, they tell me you're going away. So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and that cowboy that loved you so true. E questa era la bucolica, direi, in puro stile folk, Red River Valley, cantata insieme a Cisco Houston e a Sonny Terry. E per continuare, non potevo, arrivati a questo punto, non potevo non farvi ascoltare adesso un paio dei suoi pezzi veramente militanti, li definirei tipo di canzone che tra l'altro lo ha caratterizzato appunto proprio nel profondo, perché come già detto prima è stato il primo a toccare certi argomenti proprio espliciti, diciamo, di politica nella scena americana. E volevo farvi ascoltare per la raccolta brani militanti appunto un paio dei suoi pezzi, e ho scelto per voi, che ci andremo ad ascoltare uno dietro l'altro, Tear the Fascist Down e All You Fascist Bound to Lose. Ovviamente il compagno Woody Guthrie, sempre su Radio Wombat, Tonight Alive. There's a great and a bloody fight round this whole world tonight, in the battle of bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down, but our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky, could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. Put it there, boy. We'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose. bound to lose. Pensate un po' che queste canzoni le suonava per accompagnare i suoi compagni di flotone giù in Sicilia, quando era, mentre era nell'esercito, e vi potete immaginare come veniva trattato appunto Woody Guthrie, sia da parte dei superiori che dallo stesso governo americano. Infatti, come vi avevo già detto, l'epoca della caccia alle streghe di McCarthy, è inutile dire che Woody Guthrie era nei primi nomi su quella lista. E per riaprire un attimo la parentesi di prima che avevo aperto, tra le tantissime influenze che Woody Guthrie ha sicuramente segnato con le sue canzoni, come non citare Bob Dylan, cioè forse colui che proprio ha portato la canzone di Woody Guthrie in quelle che possiamo chiamare, diciamo, tempi moderni, quantomeno per la nostra visione, insomma, per averlo portato nella seconda metà del Novecento. E Bob Dylan è forse, insieme a Pete Seeger, il più grande discepolo e allievo di Woody Guthrie, che hanno portato a evoluzione l'estetica e l'arte della canzone di protesta di Woody Guthrie, e come sappiamo poi che influenzeranno appunto tutto un intero filone musicale. Basti solo pensare quanto ha influenzato certi generi musicali anche solo Bob Dylan. Ecco, Bob Dylan possiamo dire che era un allievo, un discepolo di Woody Guthrie. Bob Dylan, che rimase sicuramente folgorato da Guthrie e da Seeger che suonavano al Greenwich Village di New York. E per quest'altra cover, ovviamente di Bob Dylan, ho scelto Dear Mrs. Roosevelt, sempre a Tonight Alive Radio Wombat. Dear Mrs. Roosevelt, don't hang your head in pride. His mortal flesh is laid away, but his good work fills the sky. This world was lucky to see him born. Now he went up to the grade school, and he wrote back to his folks. books of law. He loved his trees and horses. He loved everything he saw. Down by the fever, and it settled in his leg. He looked up folks that wished him well, and everybody did. His world was lucky to see him walk. He took office on a crippled leg, and he said to one and all, "You money changing racket boys sure enough got to fall." Times, and I'd vote for him again. He tried to find an honest job for every idle man. His world was lucky to see him walk. He helped me to build my union, and he learned me how to talk. I could see he was a cripple, but he learned my soul to talk. His world was lucky to see him born. E questa era la cover di Dear Mrs. Roosevelt di Bob Dylan, ripreso, come vi sarete accorti, live ad un suo concerto. E Nuovi cicli di ballate per Woody Guthrie furono quello dedicato ai bambini del 1946 e quello dei grandi miti americani, in particolare le Ballads of Zack and Vanzetti del 1947. Zack e Vanzetti, ricordo, i due anarchici di origini italiane giustiziati a morte nel 1927 sulla base di indizi del tutto arbitrari, furono fatti letteralmente fuori perché anarchici e impegnati negli scioperi e nelle sommosse sindacali di quella fine degli anni 20, appunto in pieno periodo pre-Grande Depressione. E in queste composizioni il suo stile popolare, singolare fusione della verve narrativa satirica e pittoresca di Mark Twain, trovò il nervo sentimentale di un'epica da strada oltraggiosa e spontanea, eppure scandalistica, che gli valse la simpatia tanto degli intellettuali quanto dell'uomo comune. E adesso andiamoci ad ascoltare un brano tratto appunto dalle ballate dedicate a Zack e Vanzetti, e questa è Two Good Men, Woody Guthrie, Tonight Alive, Radio Wombat. Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Vanzetti was a peddling man, a pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Vanzetti are gone. They left me here to sing this song. Psycho's born across the sea, somewhere over in Italy. Vanzetti born, appearance fine, drank the best Italian wine. Psycho sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Psycho's wife, three children had. Psycho was a family man. Vanzetti was a dreaming man. His book is always in his hands. Psycho earned his bread and butter being the factory's best shoe cutter. Vanzetti spoke both day and night, told the workers how to fight. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman, Adams, Williams, Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Vanzetti docked in 1908, slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric chair he dies. All you people ought to be like me and work like Psycho and Vanzetti and every day find ways to fight on the union side for the workers' rights. Well, I ain't got time to tell this tale, the Dixon Bulls are on my trail, but I'll remember these two good men that died to show me how to live. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. two good men's a long time gone, left me here to sing this song. All you people in Swasso's Lane, sing the song and sing it plain. All you folks that's coming along, jump in with me and sing this song. It's two good men a long time gone, two good men a long time gone, two good men a long time gone, left me here to sing this song. E Guthrie divenne negli anni 50 il faro dei cantanti folk del Greenwich Village, come già detto, e poco alla volta di una fetta sempre più cospicua della coscienza dell'americano medio. Quando nel 1952 entrò in ospedale colpito dal morbo fatale della malattia di Huntington, la malattia ereditaria, ereditata in questo caso dalla madre e che ai lui purtroppo trasmetterà anche a una delle figlie del primo matrimonio, come spesso succede, l'America lo elesse a eroe nazionale, prendendolo a modello per la sua integrità morale e la sua implacabile battaglia contro i soprusi e le ingiustizie. Purtroppo, ovviamente, come spesso succede, questi grandi fari vengono elevati a miti, ovviamente, solo nel momento in cui sono verso la fine, purtroppo, come appunto accade a molti. E Woody, dopo una lunghissima permanenza appunto tra i vari sanatori, morirà per appunto la degenerazione di questa malattia nel 1967, quindi 15 anni dopo il suo primo ricovero. E che dire, tra le sue più grandi influenze non poteva essere altrimenti, c'è stato anche, cioè, non poteva essere altrimenti che andasse a influenzare tantissimo anche il figlio Arlo Guthrie, figlio nato nel 1947 dalla seconda moglie Marjorie Mezia. E anche Arlo, come vi potrete immaginare, ha seguito le orme del padre diventando un folk singer, e anche lui diventerà famosissimo per le sue canzoni di protesta contro le ingiustizie sociali, e che racconterò a tutte le varie storie degli ultimi nelle sue canzoni. E forse il suo pezzo, uno dei pezzi più famosi, è uno dei suoi pezzi di debutto, Alice Restaurant Massacre, un talking blues molto satirico dalla durata di 18 minuti, che diventerà tra l'altro un inno alla festa di ringraziamento dell'anno della sua pubblicazione. E Arlo Guthrie soprattutto diventerà famoso per la sua performance e per la comparsa del suo nome nel manifesto di Woodstock. Infatti anche Arlo Guthrie sarà tra i molti che suonerà nella leggendaria Tre Giorni, che è un po' il segno della morte dell'estate dell'amore americana. E quindi, come potevo non farvi sentire anche suo figlio Arlo, sì, con la canzone che è più famosa che è rimasta nella storia, diciamo, della sua performance sul palco di Woodstock, ovvero Coming to Los Angeles, ma in questo caso non nella versione live di Woodstock, ma nella versione da studio comparsa poi all'uscita del singolo, appunto, di Coming into Los Angeles. E questo è Arlo Guthrie, sempre su Tonight Alive Radio Wombat. Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner. Chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Yeah, it's a with a ticket to Mexico. No, we couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling said he was the Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Niente male neanche il figlio Arlo, comunque, con la sua storica Coming to Los Angeles. E tornando appunto a parlare del padre di Woody Guthrie, ma comunque all'America del benessere e della democrazia, all'America di Hollywood e dei petrolieri. Woody Guthrie contrapponeva l'America di Ludlow, dove nel 1914 furono massacrati gli operai in sciopero, per lo più immigrati, oppure l'America delle Company Towns, i lager delle città minerarie del Kentucky, dove le famiglie degli operai vivevano in condizione di totale schiavitù, oppure l'America, appunto, dei già citati Sacco e Vanzetti, eccetera, eccetera. L'opera di questo grande e umile poeta popolare costituisce l'unica storia degli Stati Uniti che parli di episodi come questi. È un monumentale affresco della provincia americana della prima metà del secolo. E il prossimo pezzo che volevo farvi sentire è un pezzo sempre di Woody Guthrie che rientra sempre in quella grande parentesi che ho aperto delle cover, anche se questa non è, sì, è una cover perché è un pezzo di Woody Guthrie, però è uno di quei pezzi rimasti nel cassetto poi della famiglia, ovvero già scritti ma non magari incompleti o non registrati oppure non arrangiati. E appunto con il consenso della famiglia Guthrie sono stati chiamati gli Wilco di Billy Bragg, altri personaggi direi profondamente influenzati da Woody Guthrie anche per il loro impegno. E alcune sonorità, certo, se siamo molto distanti, anche perché questo, se non sbaglio, è un album del 2000, 2000 e qualcosa. Questo Mermaid Avenue, come si chiama l'album degli Wilco, appunto, con tutte queste canzoni che la famiglia Guthrie ha dato appunto a Billy Bragg, e Billy Bragg ha scelto, selezionato questi pezzi che avevano solo il testo e gli mancava completamente l'arrangiamento musicale, e li ha riarrangiati con la sua visione, la visione degli Wilco, in maniera che potessero comunque onorare la memoria del proprio autore. Infatti, tra l'altro, a proposito delle canzoni della famiglia Guthrie, vale la pena di ricordare che in vita Woody Guthrie è stato estremamente prolifico, lasciando registrate più di 3.000 canzoni. E appunto questo brano, che si intitola Paper Town, è un pezzo inedito di Woody Guthrie, riarrangiato e suonato da Billy Bragg e i suoi Wilco. E adesso ce l'andremo ad ascoltare, ovviamente, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Last night or night before that, I won't say which night, a seaman friend of mine, I'll not say which seaman, walked up to a big old building, I won't say which building, would not have walked up the stairs, not to say which stairs, if it had not been two girls. My singing buddy could recollect. The girl had told us that she was a niece of Walt Whitman, but not which niece. And it takes a night and a girl and a book of this kind a long, long time to find its way back. Thank you. Questo era Billy Bragg con i suoi Wilco che cantava Paper Town, brano inedito di Woody Guthrie. E mi ero scordato di dire appunto che l'album sul quale poi Billy Bragg e gli Wilco hanno pubblicato tutte le canzoni inedite di Woody Guthrie si chiama Mermaid Avenue, come il nome della strada di New York dove Woody viveva con la famiglia tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, prima del suo ricovero. E prima di giungere ai saluti è il momento della presentazione del concerto che vi farò ascoltare adesso, subito dopo. E ricordo che ovviamente il concerto che andremo a sentire sarà disponibile solo adesso per la diretta e per la replica di giovedì, e non è contenuto nel podcast che poi verrà come sempre puntualmente pubblicato su wombat.noblogs.org. E il concerto che ho scelto per voi stasera è una cosa un po' particolare, diciamo che adesso verrebbe chiamato uno split, perché in questo caso Woody Guthrie è accompagnato da un altro soggettone sul palco, un'altra autentica leggenda, direi anche quasi quanto lui, anche se di un altro genere musicale. Infatti stiamo parlando di Huddy William Ledbetter, detto Ledbelly. E questo è un concerto di loro due insieme, uno split, non dura tantissimo, mi sembra che duri poco meno di una mezz'oretta, registrato per la radio di New York WNIC e per la rubrica Folk Songs of America. E basti ricordare appunto per dire due parole su Ledbelly. Anche su di lui varrebbe sicuramente la pena nel futuro di fare un'intera puntata di Tonight Alive, una vita incredibile, scoperto anche lui da Lomax, tanto per cambiare, quando era recluso in una prigione, condannato all'ergastolo, che stava scontando in una delle prigioni del sud, viene scoperto le sue doti musicali, attraverso le sue doti musicali poi verrà registrato da Alan Lomax, che lo registrerà per la Library of Congress, appunto per la Smithsonian Folkways, e praticamente gli salva le penne, perché dopo 40 anni tra le varie prigioni del sud, tra trasferimenti, evasioni e storie varie, finalmente riesce a uscire di prigione senza non essere più cercato dalla polizia. E appunto questo è uno split tra queste due autentiche leggende, tra Woody Guthrie e Huddy Ledbetter, detto Ledbelly, e suonano la tracklist, è ovviamente un po' e un po', si parte con You Can't Lose Me, Charlie di Ledbelly, poi sempre Ledbelly con Frank and Albert, e poi entra Woody Guthrie con John Hardy, un grandissimo classico del folk e del blues, un traditional, uno standard, e poi con Jesse James e la sua storica The Ballad of Tom Joad, e chiuderà Ledbelly con un altro blues standard come Boll Weevil. E non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima e non farvi dimenticare il prossimo appuntamento in diretta qua sulle frequenze di Radio Wombat, che sarà domani, come sempre, di domenica pomeriggio, con la fuga del gatto, con la Virgine e Bloody Mary che allieteranno, come dico sempre, il nostro recupero domenicale con la loro favolosa selezione di musica classica. E a questo punto non mi resta che augurarvi un buon sabato sera e a risentirci alla prossima trasmissione qua su Radio Wombat. Un saluto dal vostro Dalai Lama e alla prossima. Ciao ciao! Wombat. All we hear is Radio Wombat.